con tutti, dovremmo comprare 21 punti radio. E non costano centinaia di euro questi punti radio. Sì, esatto. Ecco, allora, vediamo il mistero di come uno ha fatto a calcolare così velocemente. C'è un algoritmo che è n per n meno 1, dove n è il numero di sedi da collegare, fratto 2. Perché questo esercizio è importante? Perché il massimo della sicurezza di una rete che viene definita magliata, perché si generano delle maglie, è che ognuno possa parlare contemporaneamente con tutte le altre sedi. Se una sede si spegne o succede qualche problema, io comunque garantisco che tutte le altre parlino e non cadano i servizi. Tra parentesi, un ponte radio, come tutte le cose nell'ambito dell'informatica, dato che è importante per la trasmissione dei dati, andrebbe ridondato. Farne due almeno, che se cade uno funziona sempre l'altro. Vabbè, 21 per 2 si fa presto a fare i conti. Con 42 punti radio, facciamo una media di 3.000 euro ponte radio per prendere uno economico. Ecco, così. Sempre meno di una rete dedicata. Sì. Vediamo. Sì, esatto, vediamo. Perché stiamo parlando solo dei ponti radio. No apparati di rete, no qualsiasi altra infrastruttura. Va bene, adesso questo qui, nella realtà, fondamentalmente, si evita di fare una rete magliata di questo livello qui. Si cerca di ottimizzare perché ci sono gli alberi, ci sono le case, ci sono i vicini che rompono le scatole, quindi di tutte quelle scelte un pochettino vanno scartate per questioni geografiche. Quantità della banda necessaria. Non sempre deve funzionare benissimo, non sempre tutte le filiali hanno la stessa importanza. Se ho il custode, gli lascerò sì o no l'accesso a internet e che scarichi la posta ogni tanto, non è che devo fare chissà cosa. Valutazioni economiche, dovevo metterla in prima fila, ma va bene, facciamo finta che abbiamo un budget abbastanza ricco. E la qualità della rete che si vuole, perché per chi lavora nell'informatica sarebbe bello avere sempre il meglio, nella realtà delle cose è un parametro che pesa, insomma. Anche perché di solito va accoppiato con le valutazioni economiche, non so voi, però questa esperienza. Ok, cominciamo già a dirvi delle cose di cui dopo fuori da questa sala dirò che non è vero. Comunque. Allora, l'utilizzo di impianti wireless ha il vantaggio di risolvere il problema dell'ultimo miglio. Verissimo questo. Perché? Perché posso raggiungere una qualsiasi edificio semplicemente mettendo un'antenna fuori dall'edificio stesso. Non devo fare scavi, se non quello di portare la casa. Non richiede scavi come la fibra ottica, 130 euro al metro per capirci, e è una tecnologia che funziona in LOS, line of sight, visibilità, come si dice in gergo. In realtà i fornitori continuano a ripetermi che funziona anche in non line of sight, tramite gli effetti delle riflessioni. Non ha mai funzionato, mai. Non so perché, magari noi qui siamo in pianura, in campagna, e quindi non ci sono gli edifici che ti permettono di fare gli effetti di sponda. Non so, non lo so, forse stiamo sbagliando noi a installare gli apparati, perché poi siamo quello. Su non so quanti punti radio abbiamo installato, fino adesso io non ho mai verificato che funzioni bene questa tecnologia. Infatti, in quest'ultimo caso, le qualità sono particolarmente scarse. Quindi, fermo restando che chiunque faccia una laurea in ingegneria delle telecomunicazioni e vada a dire questa cosa al professore, non mi assumo la responsabilità del voto, evitate di fare i giochi sperando in questo effetto. Ah sì, cosa bellissima, e questo qui ve la racconto come aneddoto. Spesso questi tipi di installazioni, le installazioni vengono fatte d'estate o comunque quando c'è la bella stagione, e le prove di visibilità che vanno fatte prima vengono fatte d'inverno. Perché? Per guadagnare tempo. D'inverno buona parte degli alberi non ha le foglie, o buona parte delle persone non è che costruisce case, amplia case o fa lavori strani. Al che magari fai le prove di visibilità a gennaio, bellissimo, un segnale di qualità eccellente, vai, spendi 50.000 euro in impianti, arriva a maggio-giugno e ti trovi una specie di bosco in mezzo. E tu non hai visto e non hai previsto, perché gli alberi crescono, gli alberi mettono le foglie e qualcuno decide di fare un bel giardino ornamentale in mezzo. Le gru? Le gru, per cui il segnale un giorno ti funziona, l'altro no. Sì, è scene di vita vissuta che mi piace rendervi partecipe, perché se per caso qualcuno si dovesse trovare a lavorare con impianti wireless di questo tipo, è bene che sappia che ci sono queste limitazioni. Non ti è successo, sì. A me aveva costruito un palazzo in mezzo, di te. Sì, ma è quello dopo, incredibile. Bellissimo. Parlavo con un ingegnere di un'azienda del nord-est specializzata in fibra ottica, posa di fibra ottica e connettività a banda larga, che hanno sia la tecnologia a banda larga che per fornire connettività ai clienti residenziali avevano i ponti radio. Mi diceva che come problemi sulla rete, con i ponti radio ne avevano 4 al giorno, con la fibra ottica 4 all'anno, e più che altro perché gli operai dei comuni generalmente facendo i lavori tiravano su la fibra, no? Quanta banda? Datemi un po' di banda per favore, come una volta si vedeva sul retro. Facendo finta che abbiamo definito quali sono i collegamenti, i percorsi che vogliamo fare tra le varie sedi, bisogna anche decidere cosa farci spassare su queste strade che abbiamo messo. Generalmente cosa ci mettiamo? Internet, mail, telefonia VoIP, backup remoti, perché ho sentito anche questa, e varie ed eventuali, peer-to-peer, BitTorrent, Mule, cos'è che c'è ancora dopo, tutte le radio su internet, YouTube. Scusa, nel caso esemplificato delle banche, il traffico fra filiale e filiale, in che categoria si interessa? Allora, nel traffico tra le banche, nella realtà, le banche hanno una rete interna, gli operatori dentro una banca non possono scaricare posta, hanno un accesso limitato a internet e possono lavorare soltanto sulla rete interna della banca. Quindi internet poco, mail solo quella interna, telefonia VoIP forse. Ci sono delle sperimentazioni, anche perché questi ultimi 2 anni si è spinto tanto sul VoIP, tanta pubblicità, quindi qualcuno comincia. Backup remoti su ponti radio mi viene mal di pancia. E sì, no, potete provarci, però parte il backup e forse il giorno dopo riuscite a ottenere varie ed eventuali. Ma per quello che riguarda internet per le banche, sì, adesso che c'è tutto quanto la connessione alle banche, si fa durante le attivazioni, si controlla il conto corrente, che la stessa idea. Tutto nella sala accede, non ci sono solo. Va in filiale. C'è un centro di elaborazione dati della banca che ha come minimo un paio di connessioni. Uh-huh. Ogni connessione, per esempio, sulla fibra ottica viene fatta su un lato diverso della fibra. In questo modo, se fanno lavori sulla strada di fronte all'edificio e tirano su una fibra ottica, ci sono le fibre dalle altre parti che garantiscono la connettività, e hanno un sistema di backup completo dei sistemi geografico. Ad esempio, beh, per assurdo, un monte dei passi, non mi ricordo, una banca di rilevanza nazionale ha fatto il test di ripristino dei sistemi disaster recovery in caso di bombardamento aereo sul CED. Sì, quante volte succederà non lo so, però può succedere. In compenso, tutti collegati, chiudevi il browser e stava aperta la comunicazione diretta. Sì, infatti, esatto. Sì, dopo proprio Monte dei Paschi. E poi anche dentro, non vero? Sì. Sì. Non vi parlerò di quello che mi ha detto un ingegnere che lavorava al Monte dei Paschi. Sì, soprattutto perché ha registrato, può cancellare da questa parte. No, però ti darò il mio conto corrente online. Sì, ecco, a posto. Allora, che tipo di collegamenti possiamo fare? Proviamo a vedere un po' l'aria. Possiamo avere 2 antenne che si guardano e parlano solo tra loro. Generalmente si dicono punto punto, due punti che si collegano. Qual è il vantaggio di un collegamento di questo tipo? Risentono meno dei disturbi, è come se due persone si mettessero e si parlassero una di fronte all'altra. Anche se ci sono altre persone che parlano in sala, comunque la comunicazione è efficace. Hanno un'emissione più collimata, inquinano meno. Perché? Perché il fascio è più concentrato ed è limitato su una ben definita area, un cono molto stretto. È un sistema di trasmissione continuo. La chiacchierata continua tra due persone, per capirsi. Parlo io, parli tu, parlo io, non c'è interruzione di terzi. La limitazione di questo sistema, chiaramente, solo due persone parlano. Che parlino bene, parlino a lungo, quello che volete, ma due persone parlano. C'è un secondo tipo di sistema che è i collegamenti multipli, che è definito anche punto multipunto. C'è un'antenna che si collega a più accessi. Ovviamente c'è un risparmio economico, perché io posso collegare contemporaneamente più strutture. Il costo per connessione è minore, per cui voi potete avere delle tariffe internet a casa decenti, sostenibili, non migliaia di euro. Ci sono anche dei lati negativi, però. Se io ho un'antenna che copre 360 gradi, tiro su anche tutti i disturbi a 360 gradi. Se io adesso mi mettessi in mezzo alla stanza, voi cominciate a parlare e io continuo a spiegare, sì, forse qualcuno capisce qualcosa, uno alla volta, magari ogni tanto, ma di sicuro non è la stessa efficacia del livello di comunicazione uno a uno. Punto multipunto sarebbe quasi come un ripetitore, poche parole, cioè il punto che c'è un ripetitore? Il concetto è esattamente quello del telefonino, una grande antenna che copre un'area. Le antenne possono essere a 360 gradi, quindi sparare tutto intorno a loro, oppure possono essere direzionate a 120, 90 gradi a seconda delle preferenze. Di sicuro più il grado è grande, più le interferenze che riesco a raccogliere sono maggiori e quindi i disturbi e la qualità del segnale, i disturbi aumentano, la qualità del segnale diminuisce. Su queste antenne multipunto, sì, la gestione della connessione viene come in etere, la collisione? Una volta, ecco, bravo, è un punto importante questo. Esatto, uno alla volta parla. Se ci sono 50 persone, io sono al centro della stanza, un minuto parlo con te, poi parlo con lui, parlo con lui, parlo con lui, parlo con lui. Quindi quando si libera uno, il pacchetto parte, va, e se eventualmente è chiuso, il pacchetto non parte, aspetta che si liberi. Questo sistema è efficace per quanto riguarda la semplice trasmissione dati. Se io devo cominciare a ragionare di trasmissione video, oddio me ne scampi, fonia, è disastrosa, perché provate a immaginare un flusso continuo di dati come può essere una telefonata che viene interrotto perché io devo dare la priorità anche ad altre persone, la balbuzia è assicurata in questo caso. Priorità chi la dà? Chi la decide? Cioè l'amministratore della... Le antenne. Le antenne? Io posso forzare una maggiore priorità a qualche connessione. Però in base al mercato, se in base al costo, ci sono una serie di altri parametri da giocare. Sì, diciamo che giochi in parte sulla quantità di banda che assegna l'utente. Più banda do all'utente, proporzionalmente l'apparato più la priorità, fondamentalmente. E poi ci sono tutta un'altra serie di parametri che variano da produttore dell'hardware a produttore. In realtà. Per quello è veramente difficile. Scusa, quindi sì. Soluzione? Una. Un figlio. Allora, la soluzione è che se ti serve trasmissione dati, va benissimo. Non ci sono problemi di sorta, perché il protocollo TCP/IP, nel caso perdi un pacchetto, o comunque ci siano delle latenze o quant'altro, mitiga il danno, passami sto termine. Cioè non lo risenti, va bene. Magari il browser Google si apre un po' più lentamente, però è difficile che te ne accorga. Nel caso della voce è già più pesante la cosa, la senti di più perché ogni tanto perdendo pacchetti ti manca una parola o senti un silenzio, è disturbata la cosa, cioè ti può dare fastidio. Nel caso di video immagini, impianti di videosorveglianza piuttosto che, quello è un problema perché per quanto tu possa fare buffer e ottimizzare le cose, comunque appena hai un problema in più, è un sistema talmente ottimizzato quello che puoi riuscire a ottenere, che appena hai un disturbo in più le foglie, pioggia, neve, bambino che comincia a scuotere il palo, non lo so,